guardo ciò che c'è in giro, lo osservo e scrivo, ma non fa parte di me. Quindi mi fermo e sorrido per farti capire che vivo. Sai che ci sono, ora sono quello che sono e quello che sogno lo sogno. Ma grazie a te apro gli occhi e ragiono, che ogni parola è un modo, ogni silenzio è un grido vuoto, ogni rumore è sempre un suono nuovo. E forse adesso ridiamo persone, ma ogni occasione è buona per fare capire al mondo che tutto è come un dono. E come se nel cuore mio c'è festa, solo un invito, dai resta, perché adesso una lama che brucia sempre più nella mia testa, che gira e trafigge il mio pensiero e non vuole fare capire dove sta il vero. Ma caro diario, sono ancora qui e sono ancora più intero. E di sicuro nessuno mi metterà spalle al muro, ma forse il caso ora ci ha presentato un senno. Ma di sicuro nessuno avrebbe pensato che sarebbe stato ingannato dall'impossibile. Ogni ricordo passato è un brivido nuovo, ogni gesto più vero come fosse l'ennesimo chiodo che brucia nel petto. Sai che ora muoio solo così, non c'è altro modo. Forse mi illude, non riesco a capire che fare, che dare, se amare, se dire qualcosa, dire che sei per me una cosa importante. Vorrei mandare segnali forse dove non dovrei, e sogno la notte una vita con gli occhi tuoi che fissano i miei. La pelle sottile, fine, la voce riscalda la stanza. Adesso che ci sei, adesso mi vedi, è forse un errore, ma dico a me stesso che non sarò peggio. Forse per questo adesso sono qui con una canzone in mano, è la mia occasione per dire che non seguo la ragione. Non so come tutto può stare dentro a un nome, solo per dirti che forse questo lo chiamo amore. E di sicuro nessuno mi metterà spalle al muro, ma forse il caso ora ci ha presentato se no. Ma di sicuro nessuno avrebbe pensato che sarebbe stato ingannato dall'impossibile. Mi metterà spalle al muro, ma forse il caso ora ci ha presentato se no. Ma di sicuro nessuno avrebbe pensato che sarebbe stato ingannato dall'impossibile. E di sicuro nessuno mi metterà spalle al muro, ma forse il caso ora ci ha presentato se no. Ma di sicuro nessuno avrebbe pensato che sarebbe stato ingannato dall'impossibile.